Radio 3 Mondo. Buongiorno da Anna Mazzone, buon mercoledì 6 maggio, sono le 6:53 minuti e ben ritrovati all'ascolto della rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Alla console Pino Berardi e dietro il vetro in redazione Marina Lalovic e Sara Civai. E cominciamo insieme a sfogliare le edizioni online e cartacee dei principali quotidiani internazionali e andiamo subito in Francia. Oggi partiamo dall'Europa perché in Francia ieri è stato votato il primo passaggio di una legge molto importante, la legge sul riassetto dell'intelligence dei servizi segreti. È stata votata all'Assemblea nazionale con un'ampia maggioranza, solo 10 deputati socialisti non hanno votato la legge, ma è una legge che già promette di scatenare delle polemiche. Vedremo poi quali sono le critiche fondamentalmente che vengono fatte a questa legge voluta dal Premier Valls e anche dal Presidente François Hollande. Siamo sulle Figaro, quotidiano molto vicino alle posizioni dell'ex Presidente, tornato in corsa, diciamo, in partita per le prossime elezioni, Nicolas Sarkozy. E sulle Figaro stamattina l'apertura è dedicata proprio al nuovo disegno di legge approvato a larga maggioranza, la cosiddetta legge sull'intelligence. Si sottolinea sempre in apertura di Le Figaro come appunto 10 socialisti non l'abbiano votata, la legge è passata con 438 voti a favore, 86 contrari, 42 astensioni. È stato un disegno di legge fortemente criticato perché, sottolinea Le Figaro, in molti temono il rischio di una sorveglianza generalizzata che rende schiavi i cittadini e che li priva della loro privacy. Quindi nello stesso gruppo socialista c'è stata una spaccatura, scrive il quotidiano di Parigi. In ogni caso lo stesso François Hollande, il presidente, ha richiamato, ha sottolineato l'importanza di questa legge soprattutto alla luce delle minacce terroristiche che la Francia ha anche pagato sulla sua pelle, minacce che sono diventate realtà. Ricordiamo che all'inizio di quest'anno, esattamente il 7 gennaio, si è compiuta la strage nel giornale satirico Charlie Hebdo, nel settimanale. E siamo sul Le Monde, quotidiano che invece si colloca su posizioni diverse politicamente parlando dalle Figaro, che apre con una fotografia con la scritta minaccia imminente. Il disegno di legge sull'intelligence approvato a grande maggioranza in assemblea è quello che fa Le Monde e spiegare punto per punto di che cosa tratta questo nuovo disegno di legge per il riassetto dei servizi segreti. E anche Le Monde sottolinea, senza scendere nel particolare, che il disegno è fortemente criticato ma è anche fortemente voluto dall'Eliseo. La società civile, scrive il quotidiano francese, sostanzialmente si schiera contro il disegno di legge che è stato votato proprio ieri perché non esistono contropoteri all'invadenza delle varie tecniche investigative che autorizzano qualsiasi funzionario incaricato di seguire una determinata inchiesta, di seguire una determinata pista, di entrare, di forzare, di fare delle forzature e poter entrare nella vita privata dei cittadini francesi senza limiti, senza alcun limite. Il disegno di legge definisce le aree, scrive Le Monde, che possono richiamare i servizi per giustificare la loro sorveglianza e queste aree sono amplissime. Sostanzialmente viene sottolineato come nella legge è imperante il principio dell'indipendenza nazionale, dell'integrità territoriale, della difesa nazionale nell'ottica della prevenzione del terrorismo. Ci sarà una commissione di controllo, ci saranno delle scatole nere. Questa è una delle disposizioni più controverse, scrive Le Monde, perché in base a questo disegno di legge si possono costringere i fornitori di servizi internet, coloro che detengono e che gestiscono sostanzialmente i server, a rilevare una minaccia terroristica sulla base di un trattamento automatico, la famosa scatola nera, quindi qualcosa che viene registrato in maniera automatica e che fa scattare un allarme, quindi perquisizioni e quindi indagini. Quindi sostanzialmente viene messo anche sui server il peso di questa di questo controllo per evitare la realizzazione che la minaccia terroristica si realizzi. Quindi c'è un'espansione generalizzata della sorveglianza elettronica per impedire quello che viene definito da Le Monde proprio un nuovo futuro terrorista. E poi c'è tutto un sistema per la raccolta dei cosiddetti big data, ossia di quei dati sensibili che possono essere raccolti ogni volta che navighiamo su internet attraverso i cosiddetti cookies. La traduzione sarebbe quella di biscotti, piccole tracce che ognuno di noi lascia e che rilasciano, però non sono innocue, perché rilasciano delle informazioni sensibili sulle nostre attività su internet. E andiamo su Liberation, che si scaglia da giorni, da tempo, anzi da più, da settimane contro la nuova legge sull'intelligence. Questa mattina un durissimo editoriale al vetriolo di Marcella Yacoub sulla prima pagina del quotidiano di sinistra francese parla di un cittadino schiavo perennemente sotto sorveglianza e l'editorialista di Liberation sottolinea come il quotidiano si lamenta e anche molto della nuova legge sull'intelligence. È draconiana, sproporzionata, arbitraria, si mette in piedi un arsenale di microfoni, telecamere e altre tecniche di spionaggio di massa, oltre al controllo dei giudici per evitare atti terroristici e attacchi contro la forma repubblicana delle istituzioni. La violenza collettiva rischia di minare la sicurezza nazionale. La criminalità organizzata, scrive appunto Liberation. Insomma, per catturare alcuni bombardieri, dice l'editorialista del quotidiano francese, non si esita a segnalare in ostaggio la popolazione francese nel suo complesso, e questo è il peggiore degli incubi totalitari. E poi l'invettiva continua anche contro i socialisti, che hanno partorito un mostro, questi sono i termini utilizzati da Liberation, che rappresenterà la vergogna delle future generazioni che dovranno trovare la forza di superare questa legge. Restando sempre in Francia, però voltando pagina, siamo ancora su Liberation, perché continua chiaramente il dibattito su quello che era il cartello delle 40 giornaliste che hanno denunciato atteggiamenti sessisti da parte dei politici seguiti durante il loro lavoro. A questo livello del dibattito in Francia, dopo le dichiarazioni di queste 40 donne che per la prima volta hanno anche raccontato, senza fare i nomi, ed è questo anche il punto del dibattito, atteggiamenti maschilisti, sessisti da parte di deputati e di funzionari dello Stato, adesso la Francia si interroga se non è il caso di svergognare coloro che si sono macchiati di questo atteggiamento e di fare i nomi. E su questo il dibattito è aperto e molti sono convinti che i nomi vanno fatti nel momento in cui esiste una legge ben precisa per condannare gli atti di discriminazione e di sessismo in campo lavorativo contro le donne. E non prima, perché facendoli prima si può innescare una modalità di attacco e quindi anche di difesa e di una vergogna, una gogna generalizzata a mezzo stampa, senza però poi avere concretamente in mano la certezza che quella persona, che quell'uomo, che quel politico effettivamente si sia comportato in maniera maschilista e sessista. E quando sono le 7:01, voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, siamo sui principali quotidiani americani, sul New York Times. La notizia è rimbalzata anche dalla Gran Bretagna, dal canale televisivo e radiofonico inglese BBC. Gli Stati Uniti sono pronti ad offrire 20 milioni di dollari per ottenere informazioni sui leader dello Stato Islamico di Daesh. Il governo americano, come proprio nel Far West, ha messo una taglia su 4 teste, le teste di personaggi che vengono considerati dei leader cruciali dell'ISIS, dello Stato Islamico, e questi 20 milioni vanno a chi, al fortunato, tra virgolette, che porterà al governo americano delle informazioni utili per sapere come scovare, come catturare questi leader che organizzano di fatto delle cellule militanti sul territorio. il nome dei quattro che sono ricercatissimi e su cui pende da ieri questa taglia sulla testa sono Abd al-Rahman Mustafa, al-Kaduli Abu Mohammed al-Dadani e Tarkan Tayumurazovic Batir Shlivi. Sono tutti negli Stati Uniti fondamentalmente, anche se entrano e escono dal territorio americano, perché spesso si sono recati in Siria a combattere, sono tornati indietro, sono stati in Somalia, sono stati nei campi di addestramento in Libia. Allora la domanda sorge spontanea: come hanno fatto a rimettere piede negli Stati Uniti adesso, ad essere tuttora a piede libero? Già in precedenza, sottolinea anche la BBC, gli Stati Uniti, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il cosiddetto Ministero Homeland, sarebbe il Ministero degli Interni, aveva offerto 7 milioni di dollari per informazioni su uno solo di questi leader. Adesso il pacchetto per la taglia è aumentato a 20 milioni di dollari. Restiamo in tema medio orientale, andiamo in Libano, siamo sul Daily Star, quotidiano in lingua inglese di Beirut. Si continua a combattere anche in Libano, esattamente come in Siria, nonostante non in maniera così eclatante. Hezbollah ha ucciso 15 militanti dell'ISIS, dello Stato Islamico, durante un'imboscata a Kalamun. La cronaca che viene riportata dal Daily Star si basa su quelle che sono le informazioni di una fonte che vuole rimanere anonima e che parla anche di 6 veicoli distrutti e in cui si trovavano degli individui affiliati ad Al-Qaeda. L'imboscata è avvenuta nella zona di Kalamun, proprio nella zona orientale del Libano, ai confini con la Siria e nell'enclave di Tfail. E questo ha portato anche a parlare il leader indiscusso di Hezbollah, che ha detto sostanzialmente come in questo momento sta per partire una nuova offensiva contro la minaccia jihadista. Nasrallah ha parlato, ha detto che Hezbollah è intenzionata a prendere in mano le sorti della guerra, della lotta che si sta combattendo contro lo Stato Islamico, dal momento che l'esercito libanese non è in grado di farlo con i propri mezzi, e scatenando tra l'altro le ire del premier libanese, del primo ministro Saad Hariri, del primo ministro che è succeduto all'ex premier Saad Hariri, e che sostanzialmente ha puntato il dito contro Nasrallah, sostenendo che l'esercito libanese è perfettamente in grado di proteggere la popolazione dalla minaccia jihadista. Nasrallah è andato anche oltre durante questo annuncio che ha fatto ieri in TV, su un primo canale televisivo libanese, su Al-Manar, dicendo che sono pronti a sconfiggere tutti gli uomini e tutti i militanti di Al-Nusra, che sarebbe la chiave, diciamo la cellula qaidista barra dello Stato Islamico del Califfato, che si trova ai confini tra Siria e Libano, proprio per garantire la sicurezza di tutta la popolazione libanese, indipendentemente dalla sua appartenenza etnica. Quindi Nasrallah ha voluto sottolineare anche come la necessità, come Hezbollah si impegni a proteggere i villaggi cristiani, e ce ne sono molti lungo la linea di confine orientale proprio tra la Siria e il Libano. Lo Stato non è in grado di combattere il terrorismo, noi lo sappiamo fare molto bene, ha detto il leader di Hezbollah, ed è per questo che entreremo in azione molto presto. Una di queste prime azioni è stata l'imboscata di Kalamun, ma nello stesso tempo il leader non ha assolutamente descritto quali saranno le prossime azioni militari che farà Hezbollah. E restando sempre in Libano, il Libano che un po' è l'ombelico, è quello che ci dice la pancia di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Indubbiamente, a fronte della minaccia esterna rappresentata dall'ISIS, dal califfato, esiste anche un'instabilità interna che continua a trascinarsi da ormai troppo tempo. Per ben 22 volte il governo libanese si è riunito per nominare un presidente che prende il posto dell'ex presidente Michel Sleiman, ma ancora non c'è fumata bianca. Quindi il Libano continua ad avere dopo più di un anno, perché è da aprile dello scorso anno che è finito il mandato di Michel Sleiman, continua a essere senza presidente. Sostanzialmente la vita politica del paese, anche delle decisioni importanti che potrebbero essere prese, sono completamente in stallo, completamente bloccate. Restiamo sempre in Medio Oriente, vi proponiamo un'esclusiva però del quotidiano francese Libération su un nuovo documento, un documento molto interessante che poi ha innescato immediatamente una polemica tra le parti avverse. È un documento firmato dalla ONG Breaking the Silence, Rompere il Silenzio, in cui si riportano delle dichiarazioni di soldati israeliani, i quali sostengono che l'esercito israeliano si è macchiato di gravissimi abusi contro i civili a Gaza, come una sorta di confessione. Ovviamente da parte israeliana, da parte di Tzal, dell'esercito, tutto è stato marcato come propaganda sostanzialmente politica pro-palestinese, ma in realtà il dossier di Breaking the Silence è davvero molto corposo e per la prima volta fa parlare dei testimoni che provengono proprio dall'interno delle forze militari israeliane. E siamo sul Jerusalem Post, che ci dà la notizia, è l'unico quotidiano internazionale che ha dato questa notizia in anteprima, anche se le fonti sono ancora da verificare, o meglio ancora da capire l'entità di questo attacco e che conseguenze porterà. Secondo fonti militari sudanesi ci sarebbe stato un attacco aereo, un raid aereo straniero fatto da caccia straniera su Khartoum. Il Jerusalem Post sottolinea che in base ai media arabi in lingua araba e in particolare in base alle parole del corrispondente Al-Arabi che si trova in questo momento di Al-Arabi che si trova in questo momento a Khartoum, si sono sentite delle esplosioni dovute a delle bombe cadute sulla città durante un attacco portato avanti da quella che viene definita una entità straniera. E il Israele, sottolinea il Jerusalem Post, che ricordiamolo è un quotidiano conservatore vicino alle posizioni di Benjamin Netanyahu, ha ripetutamente colpito in passato negli anni dei target, degli obiettivi in Sudan per questioni di sicurezza nazionale. Torniamo in Europa, siamo sulle pagine, sull'apertura di El Paese, il quotidiano spagnolo che parla tanto di politica. Questa mattina comincia con il nuovo cambio di Podemos, del movimento che si è avvicinato alle posizioni e si è inserito nelle posizioni ideologiche dei socialisti, che ancora una volta cambia, che abbandona le sue misure più radicali, scrive il Paese, per un programma che sia più largamente condivisibile e quindi un programma che secondo il quotidiano spagnolo è sicuramente, indubbiamente, molto più realista. Si abbandona l'idea del reddito universale, quindi del reddito per tutti, però si torna a parlare, Pablo Iglesias, che è il leader del movimento Podemos, torna a parlare di un riscatto del cittadino, della cittadinanza. Quello che colpisce è che durante questo, che non è un congresso, viene definito come un meeting, quindi una riunione informale di tutte le varie delegazioni nazionali spagnole di Podemos, è stata analizzata, è stata sviscerata la critica che viene da più parti, soprattutto dal punto di vista economico al movimento, e poi il movimento si è ancora una volta trasformato in così poco tempo, tanto che, scrive il Paese, adesso assistiamo a una versione di Podemos 3.0, non più 2.0. Il movimento di Pablo Iglesias, scrive il quotidiano spagnolo, adesso è pronto a cercare, a valorizzare tutte le nuove proposte che possono partire dal basso in un'ottica molto più realista. E c'è anche Matteo Renzi, il presidente del Consiglio italiano, sulla prima pagina di El País, con un articolo al vetriolo scritto sulla nuova legge elettorale italiana. Renzi taglia un abito per un'Italia che non esiste. e che forse non è mai esistita, scrive Il Paese. La legge elettorale che dà la stura, che dà il via al bipartitismo, in realtà rafforza la leadership del quello che viene definito il primo ministro, quindi del presidente del Consiglio. E anche l'attacco dell'articolo è molto duro. Il titolare della politica italiana non è mai stato votato. L'ultima volta che Matteo Renzi si è sottoposto a un'elezione, quindi è andato incontro alla partita elettorale senza contare le primarie del suo partito, è stato nel 2009, quando è diventato sindaco di Firenze con il 59,96% di preferenze, e solo 3 anni dopo ha iniziato un assalto al potere nazionale che ieri lunedì, appunto, perché questa edizione è uscita, l'edizione ieri sera online del Paese, si è conclusa con l'approvazione della nuova legge elettorale che rafforza enormemente la sua posizione. Vi consigliamo anche la lettura di un editoriale su El Paese che parla di italiani e spagnoli allo specchio, con cose che rendono la Spagna e l'Italia molto simile, con un'Italia che cerca una stabilità attraverso anche questa nuova legge elettorale e nuovi pacchetti di misure che rendano sempre più stabile il governo, e con una Spagna che invece almeno la stabilità politica ce l'ha da tanto tempo, dalla fine della dittatura. Ultima notizia sempre dalla Spagna che troviamo su El Paese, l'abbiamo sentita nel giornale radio: si riaprono i collegamenti tra Cuba e Stati Uniti, prima con i traghetti e dopo con gli aerei. La nostra rassegna stampa finisce qui, la linea ora passa a Prima Pagina, ci ritroviamo alle ore 11. Buona giornata da Anna Mazzone.